poi concretamente questi studenti chiedevano. Si è poi saputo dopo, e anche questo in maniera confusa, quando poi c'è stato il massacro, quando c'è stata l'occupazione della piazza e tutto quanto. Perché noi pensiamo appunto che in situazioni come quelle del socialismo realizzato, cosiddetto, moti e fermenti che in un qualche modo rimettono in discussione il tipo di situazione cristallizzata, burocratica, di privilegio che si è venuta a creare, siano comunque, quando sono di massa, quando sono appunto, che coinvolgono settori ampi di quello che in questi paesi è definito il popolo, fenomeni comunque positivi, anche se ovviamente sono fenomeni spuri, all'interno dei quali, come in tutte le situazioni nascenti di questo tipo, esistono posizioni politiche molto diverse, esigenze molto diverse, anche esigenze molto confuse. Io credo che questa fosse un po' la situazione anche del movimento degli studenti in Cina nella fase appunto precedente al massacro. C'è una situazione in cui, assieme a una serie di rivendicazioni che nelle parole d'ordine si unificavano, avevano però per vari gruppi, per varie tendenze, addirittura per i singoli studenti, significati diversi anche le parole che venivano usate. Probabilmente libertà non significava la stessa cosa per tutti, probabilmente democrazia non significava la stessa cosa per tutti, probabilmente uguaglianza non significava la stessa cosa per tutti, però comunque rimaneva appunto il dato che c'era questo grande movimento che voleva comunque mettere in discussione una struttura cristallizzata che in ogni caso negava, toglieva il potere appunto al popolo e lo relegava, lo consegnava nelle mani di una sfera di privilegiati che poi nel caso della Cina, come vedremo poi anche nel corso della discussione, si è trasformata in una vera e propria classe sociale, molto simile a quella di altri, almeno secondo la nostra valutazione, molto simile a quella degli altri paesi del terzo mondo che non hanno nessuna velleità di chiamarsi comunisti. Ecco, quindi questo tipo di scelta di campo è sempre stata una scelta di campo chiara. Quello che resta da capire, e che noi vogliamo appunto capire al di là così, della propaganda, del sostegno, della solidarietà, è, e lo scriviamo anche nel manifesto, come è potuto succedere. Ora io voglio fare una breve digressione. Un giudizio storico sul maoismo credo che sia difficile da darlo. C'è stata in effetti un'ubriacatura ai tempi appunto della rivoluzione culturale. Io credo, questa è la mia opinione personale, perché anche nella democrazia proletaria non è che si sia mai discusso più di tanto di queste cose, che nella rivoluzione culturale ci fosse una serie di elementi estremamente significativi e positivi, in un contesto in cui però c'erano anche elementi di negatività, in cui comunque la concezione del potere, in cui comunque la concezione della democrazia proletaria, in cui comunque la concezione appunto della gestione popolare non erano, cioè rimanevano comunque quelli di tipo tradizionale, quelli legati in un qualche modo alla concezione terzo nazionalista. Io credo che nella rivoluzione culturale ci fossero però alcuni aspetti positivi, anche lì, cioè si è messo in moto un potente movimento che metteva in discussione una struttura cristallizzata, burocratizzata, una struttura appunto che negava ogni forma di espressione, ogni forma di potere, appunto a chi il potere doveva averlo, a chi il potere ufficialmente veniva attribuito, cioè al popolo, alla classe operaia e ai contadini poveri, che in realtà non contavano nulla neanche in Cina, neanche allora. E credo che il ruolo importante di Mao sia stato questo sostanzialmente, di mettere in moto un meccanismo di cui certamente lui è stato elemento catalizzatore, non elemento promotore, cioè anche qui concezioni mitiche dell'eroe non ci appartengono, cioè Mao ha potuto fare la rivoluzione culturale perché i tempi erano maturi per fare la rivoluzione culturale. Quando Mao ha detto bombardate il quartiere generale è stato bombardato perché c'era chi lo voleva bombardare, perché i tempi erano maturi, perché i tempi erano pronti, perché il fermento era già a livello sociale. E questa è la grande positività della rivoluzione culturale, io credo. Così come la messa in discussione di una serie di questioni, così come il riaffermare di una serie di principi, come appunto quello della non separazione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale, come quello appunto della rotazione nel lavoro, nelle mansioni, quella dell'assoluto egualitarismo. E io credo che la rivoluzione culturale ha avuto una serie di intuizioni teoriche importanti, anche se poi non è sempre riuscita a realizzarle. E anche se poi, io credo che sia finita, adesso il discorso sarebbe lungo, poi possiamo approfondirlo se il dibattito continua, è finita certamente in una situazione in cui non sono affermati quelli che erano i presupposti dati, ma si è affermato ben altro, aprendo la strada poi appunto alla presa del potere da parte di Deng, da parte di chi invece voleva in un qualche modo una democratizzazione di tipo liberale, di tipo occidentale, cioè l'introduzione del mercato in Cina, sostituendo appunto un elemento di economia, un elemento così di politica che poi la rivoluzione culturale aveva, che di economia si è occupata poco. Ecco, cioè io credo che allora il problema è capire come è potuto succedere questo passaggio, cioè cosa è successo in Cina, perché si è passati da una situazione in cui la Cina era un paese poi vedremo meglio com'era. Comunque un paese sostanzialmente indipendente, profondamente indipendente, un paese povero ma nella sostanza egualitaria, cioè in cui tutti erano poveri nello stesso modo, un paese in cui c'era una fortissima tensione ideale che in qualche modo giustificava una condizione di egualitarismo appunto anche per chi svolgeva professioni che altrove erano ben remunerate e davano potere, a una situazione invece in cui si è entrati nel mercato internazionale, in cui le divisioni, le frammentazioni, le divaricazioni salariali, di potere, di ruolo economiche sono diventate vastissime, in cui c'è una forte insoddisfazione di ampi ceti che appunto vorrebbero di più, vedono a loro promesse più cose che non gli vengono poi date perché non è possibile dargliele, un paese che è diventato dipendente dal punto di vista del bilancio commerciale con l'estero dei paesi imperialisti, di un paese appunto che è sempre meno indipendente anche dal punto di vista del giudizio politico, della sua capacità di intervenire nelle questioni mondiali, cioè la Cina pur nella sua povertà era comunque il paese leader in un qualche modo dei paesi non allineati, era comunque una forza estremamente importante a livello internazionale, oggi questo certamente non lo è più, nel senso che è un paese oggi che questa, proprio perché non ha più questa autonomia di giudizio, questa sua capacità di essere autonoma ai limiti dell'autarchia, insomma, in un qualche modo rispetto appunto ai paesi occidentali. E come è potuto succedere che il valore di fondo che era l'egalitarismo in questa società, che in un qualche modo giustificava una povertà diffusa ma uguale per tutti, è saltato, è stato sostituito dai valori tipici del nostro mondo, che però appunto non possono essere soddisfatti e quindi hanno creato una situazione profonda di insoddisfazione e anche una situazione profonda poi di privilegio per alcuni ceti e quindi poi anche un livello di corruzione che probabilmente era sconosciuto negli ultimi anni, era sconosciuto dalla rivoluzione del 49 in poi a questo livello. Cioè, come è potuto succedere questo cambiamento, questa trasformazione? Come è potuto succedere appunto, cioè, fra l'altro questo mette in discussione, fra l'altro evidentemente, i risultati della rivoluzione culturale, perché se questa era consolidata, se questa avesse ottenuto i risultati che si dava, certamente questo mostro, come viene definito, non poteva nascere in maniera così tranquilla, quindi evidentemente c'era qualcosa che non andava anche prima. Quindi si tratta di capire cosa è successo, e questo io credo che sia la cosa che a noi deve interessare di più. Deve interessare di più perché comunque noi pensiamo che Deng Xiaoping e i suoi oggi godano sostanzialmente della complicità e della protezione internazionali perché in un qualche modo garantiscono quei traffici che si sono avviati con i paesi imperialisti, e infatti di là della deplorazione dei primi giorni dopo il massacro tutti oggi sono contenti, dalla Fiat italiana fino agli Stati Uniti d'America fino al Giappone, che sostanzialmente il potere si sia normalizzato di nuovo nelle mani degli stessi di prima, che garantiscono questi traffici dopo aver eliminato chi li metteva in discussione. E quindi appunto quest'uomo oggi, questo gruppo dirigente, questo gruppo di privilegiati, oggi gode dell'appoggio internazionale, nella sostanza. Non è vero che si è isolato, non è vero che è tagliato fuori, non è vero che è sottoposto alle dure critiche di tutto il mondo, anzi è sostanzialmente sostenuto, è sostenuto fino in fondo da quelli che fra l'altro lo sostenevano fino a prima, di quelli che l'avevano messo poi in un qualche modo al potere, che continuavano a dire fino al giorno prima del massacro che Deng Xiaoping era il grande rinnovatore della Cina, era quello appunto che in un qualche modo garantiva un percorso democratico. Io credo che noi non abbiamo mai avuto nessuna simpatia per questo tipo di modello, perché noi pensiamo appunto che questo tipo di modello abbia portato delle strutture incredibili. E qui solo due parole contro l'uso che è stato fatto di questa vicenda senza peraltro capirla. Qui siamo di fronte a una sequela di luoghi comuni sulla vicenda cinese che, oltre ad essere fastidiosissimi, chi ha seguito un po' di campagne elettorali in televisione se ne è reso perfettamente conto di quanto siano fastidiose certe affermazioni, fra l'altro fatte da certi personaggi, no, cioè veramente facce di bronzo che hanno il coraggio di ergersi a paladini della vita umana dopo aver avvallato le cose più incredibili a livello internazionale, i massacri più vergognosi, le repressioni più tremende. Ma al di là di questo, cioè, il problema vero è appunto non è vero che in Cina Deng Xiaoping ha portato la ricchezza. In Cina c'è stato un impoverimento di vasti settori della popolazione, la maggioranza della popolazione è oggi più povera di prima. Ha portato all'arricchimento di un settore molto ristretto di popolazione, però il luogo comune dice in Cina si sono tutti arricchiti. Non è vero che ad esempio in Cina nelle campagne la privatizzazione ha portato a grandi vantaggi per i contadini. Oggi, secondo i dati forniti dalle varie organizzazioni internazionali, ci sono oltre 200 milioni di cosiddetti esuberanti nelle campagne, che sono appunto contadini in surplus rispetto al tipo di produzione, al tipo di rapporti di produzione che si sono andati a installare, di tipo privatistico, di tipo tradizionale. Oggi c'è una disoccupazione spaventosa, oggi c'è un tasso di inflazione altissimo che annulla i salari relativamente bassi, appunto, che prima avevano, che però corrispondevano a un tenore di vita, cioè a un costo della vita particolarmente basso anch'esso. Oggi c'è una situazione di inurbamento crescente, continua, di fuori di ogni controllo, nel senso che le grandi città si stanno gonfiando enormemente di gente che proviene dalle campagne, disoccupata, che va in giro a cercare lavoro e non lo trova. Oggi è ritornata fuori alla grande la delinquenza di chi appunto non riesce, cioè tutti i mali del classico paese del terzo mondo, appunto subalterno all'imperialismo, sono rispuntati fuori. Per cui non è vero, sono luoghi comuni però ridicoli, sbagliati, quella che le riforme di Deng Xiaoping hanno portato il benessere alla Cina, hanno portato il benessere per uno strato molto ristretto che nel caso della Cina, guarda caso, coincide con il partito poi nella sostanza. Quindi diciamo il ceto privilegiato in questo caso era un ceto già esistente, organizzato, una sorta di massoneria, visto che è stato usato spesso questo termine, cioè una sorta di gruppo consociato, appunto il Partito Comunista Cinese, che ha forti privilegi, è quello che gestisce il potere, è quello che gestisce i privilegi anche economici, è quello i cui figli occuperanno i posti migliori, quello che manda i figli nelle grandi università e via così. E questa è un po' la situazione che c'è oggi. Allora il problema è capire come si è arrivati a questo e capire appunto come se ne può uscire sconfiggendo questi luoghi comuni. In Italia l'uso che si è fatto della vicenda cinese è stato un uso vergognoso, tutto a fini interni, addirittura a fini elettorali, si è buttata la croce su Occhetto come se il Partito Comunista fosse il responsabile del massacro della piazza Tiananmen, si è dissertata a lungo del comunismo come origine di tutti quanti i mali, Deng Xiaoping da eroe della riforma anticomunista, da quello che aveva cancellato ogni traccia del maledetto maoismo, è diventato invece classico comunista, quello che fa i massacri in nome del comunismo, classica figura all'interno di un movimento che da sempre è sanguinario, il tutto detto operato da gente che ha nella storia dei loro movimenti analoghi massacri, cioè basti pensare appunto, io credo che il mondo cattolico possa dire poco sui massacri insiti e sulla violenza insita nel modello comunista, quando nel corso della sua storia ha fatto cose altrettanto gravi, forse anche peggiori, in nome di un'ideologia e la necessità di convertire la propria fede alla gente, e credo che lo stesso movimento socialista fino al 60 sostanzialmente ha condiviso pienamente, almeno per quel che riguarda l'Italia, quello che l'internazionale e lo stalinismo hanno fatto in quei paesi. Ecco, per cui io credo che il problema vero oggi sia quello, per chi non vuole appunto utilizzare in maniera strumentale il problema della Cina, salvo poi essere complice, essere il vero sostenitore di Deng Xiaoping nella sostanza, come poi sta avvenendo per i governi occidentali, quello appunto di cercare di capire cosa è successo, di cercare di capire appunto verso dove si può andare, di cercare di capire se è possibile modificare le cose in un'altra direzione che non sia quella della restaurazione di tipo capitalistico, che poi porta dei disastri nel caso della Cina. Cioè credo che il massacro sia un massacro fatto non dal comunismo in questo caso, ma fatto proprio da un regime tipo terzomondista, dipendente dall'imperialismo occidentale, che ha operato come avrebbe operato una qualsiasi classe dirigente di paesi analoghi. Quindi credo che in questo caso, questo non per giustificare il comunismo o altro, ma credo che in questo caso c'entri molto poco il 56 ungherese o la Polonia, ma credo che sia un fatto molto specifico e molto appunto legato e abbastanza omogeneo con quello che succede ed è successo in altri paesi del terzo mondo con analoghi problemi. Ecco, quindi capire, io credo che sia più importante che limitarsi alla propaganda. Oggi l'ordine in un qualche modo torna a regnare, i problemi, come tutti quanti sappiamo, poi tornano fuori col tempo, quindi certamente le vicende cinesi non sono finite qui, sono finite in questa fase probabilmente, cioè nel senso che in questi giorni tutto l'armamentario peggiore della delazione, i fratelli che denunciano i fratelli, insomma le solite cose che succedono in questi casi si stanno verificando pienamente. E io credo che l'importante per noi appunto sia ricavare sempre da queste cose appunto un'analisi che ci permetta poi di applicarla a situazioni analoghe, a situazioni anche di altro tipo, in modo da evitare queste cose, in modo da avere una strategia che comunque porti fuori dalle secche del comunismo di tipo tradizionale, senza per questo finire poi appunto in una logica che è quella di tipo imperialistico subalterno, che porta poi a questi disastri e porta a una situazione che non è affatto migliore di prima, ma anzi è molto peggiore per la gente, insomma. Ecco, io mi limito qui, do la parola al professor Francesco Montessoro, che insegna storia dei paesi afroasiatici, che appunto parlerà, ecco, quando lui ha finito la sua relazione, i presenti possono intervenire, chiedere o fare interventi, dire. Un film di 20 anni fa aveva per titolo La Cinevicina e io mi sono sempre accorto di quanto menzognero fosse questo titolo. Non è vero. La Cina è lontana. E la Cina è lontana spesso per le conseguenze, le discussioni che sulla Cina si sono susseguite periodicamente. Della Cina è possibile dire una cosa e il contrario di quella cosa, in qualche modo impunemente. E vorrei dire questo per invitarvi a pensare alle questioni della Cina con una certa cautela, nel senso che anche in questi giorni le cose che sono giunte, le informazioni che sono arrivate, sono informazioni misere, in fin dei conti, spesso contraddittorie, spesso non sono informazioni, in alcuni casi sono falsi, in altri casi semplicemente sono discussioni, sono chiacchiere che non spiegano nulla della Cina. Certo, quello che fa discutere della Cina, e in questo possiamo dire la Cina è in un certo senso vicina, sono le repentine occasioni di incontro con la Cina, non solo della Cina del nostro secolo, anche la Cina del passato, è entrata periodicamente a sconvolgere il pensiero, le concezioni degli europei, degli occidentali, nel Settecento, in qualche modo ancora nell'Ottocento. Poi certo la Cina di Mao ha sconvolto il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare, forse anche quando è accaduto in piazza Tiananmen, è destinato a segnarci. Questa crisi, dunque, la crisi che è entrata in tutte le case, che è stata per la prima volta effettivamente vista da vicino con i carri armati, con il massacro degli studenti, questa crisi è così inaspettata. È una crisi annunciata, in realtà, perché effettivamente negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 2 anni, si erano moltiplicati i segni del disagio cinese, si erano moltiplicati gli elementi del precipitare di una situazione che oggettivamente era di difficile gestione da parte del potere. Questa crisi, in qualche modo annunciata per almeno per gli esperti che seguivano abbastanza da vicino questi processi, era annunciata, ma si poteva presumere un prima, un poi, si potevano ipotizzare i perché. Certo, le sorprese si sono avute con il vedere precipitare la crisi a Pechino come crisi amministrata, gestita da un gruppo di studenti. E su questo io vorrei attirare la vostra attenzione. Non è affatto scontato quanto è accaduto a Pechino. Nel senso che nelle crisi che investono in qualche modo tutti i paesi del socialismo reale, diciamo così, e nelle crisi che investono anche altri paesi, in questo caso del terzo mondo, noi abbiamo tra i protagonisti molte forze sociali, contadini, talvolta i ceti urbani proletari. Pensate a quanto accade, ad esempio, in Polonia, dove per 10 anni il sindacato è il sindacato, naturalmente, degli operai. In Cina, invece, sono gli studenti. Sono loro, effettivamente, ad essere cervello, ad essere forza reale. Un dato, questo, tutt'altro che scontato. La crisi sociale in Cina esiste ed è profonda, ma in questa situazione non abbiamo avuto l'esplosione delle campagne. Non abbiamo avuto neppure l'esplosione, o quantomeno la formazione, di un movimento operaio antagonista alle organizzazioni del regime, ai sindacati del regime. I contadini sono stati sostanzialmente assenti. Gli operai, se ci sono stati, come dire, inseriti in un movimento che aveva altri leader, altre caratteristiche. E io vorrei proprio partire da questo dato, l'emergere di uno strato, quello studentesco, che in qualche modo è riuscito a coalizzare forze più grandi di se stesso, uno strato abbastanza limitato in Cina. Guardate, gli studenti, o meglio, in questo senso, gli studenti universitari, non tutti gli studenti, l'elite degli studenti cinesi, gli intellettuali anche, hanno sempre avuto, diciamo, pessimi rapporti con il regime che è stato instaurato dopo il 1949. Per tante ragioni, intanto perché la rivoluzione cinese è una rivoluzione ampiamente contadina. C'è un'elite intellettuale, ma certamente questa elite intellettuale non ebbe presa ad un certo punto della rivoluzione cinese, non ebbe presa sulle città, non ebbe presa sui ceti urbani, non ebbe presa sugli intellettuali veramente. La rivoluzione fu una rivoluzione contadina. Nel 1950 tutta la popolazione cinese viene in qualche modo schedata per origine di classe, per cui il figlio del contadino povero sarà per sempre un rivoluzionario, il figlio dell'operaio apparterrà ad un certo gruppo sociale, anche se cambia mestiere, anche se diventa intellettuale, anche se diventa funzionario di partito, ha però una origine di classe rivoluzionaria. Gli intellettuali, quasi sempre, sono figli, o sono essi stessi, nel 1950, potevano essere invece classificati tra i borghesi o appartenenti ai ceti, alle classi feudali, essere figli o essere essi stessi, proprietari terrieri. Dunque, gli intellettuali hanno una vita grama nella Cina maoista. Nel 1957 c'è il movimento contro la destra, gestito, si dice poi il ricorso della storia, proprio da Deng Xiaoping, che reprime, in particolare proprio gli intellettuali comunisti, ma comunque reprime gli intellettuali. Nell'ambito della rivoluzione culturale è stato ricordato, forse in un contesto un po' diverso, però è comunque interessante il discorso che Mao fa della separazione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale. Il problema, che è un problema poi certamente molto interessante, della ricomposizione del lavoro, si trasforma però in qualche cosa che concretamente vuol dire bastonare l'intellettuale, mobilitare gli studenti, le guardie rosse, certo, in un gioco che è però un gioco di fazione spesso. E poi, quando interviene l'esercito nella fase culminante della rivoluzione culturale, le guardie rosse, gli studenti, certamente non esiste il fenomeno della rivoluzione culturale nelle campagne, vengono poi inviati in campagna. Dalle campagne ritorneranno dopo 10-15 anni, una generazione in questo senso di intellettuali bruciati, e spiega poi perché spesso tra i padri diciamo così, anche padri di pensiero degli attuali studenti si trovino ex guardie rosse, ma in questo caso non maoisti. Si trovano coloro che più hanno patito gli esiti della rivoluzione culturale. Certo, nel 1977, lo dico per sottolineare il dato anche paradossale, fu proprio Deng Xiaoping in qualche modo a premiare gli intellettuali. Nel senso che nel 1977, prima del varo delle riforme, vengono reintrodotti gli esami per l'ammissione all'università. Esami durissimi, severissimi, ma premio ad un ceto come quello degli intellettuali cinesi che da sempre fanno esami. Il letterato confuciano era scelto per le sue capacità intellettuali, perché era bravo. Gli esami in Europa arriveranno invece molto più tardi, ma proprio sull'esempio cinese. Sarà poi Napoleone, lo Stato moderno, che avrà la forza di introdurre il concorso. La classe dirigente cinese tradizionale è selezionata per meriti, è una meritocrazia, veramente. La classe dirigente tradizionale dell'Europa è composta da nobili, non si può accedere alla classe dirigente. Si è figli di nobile, si ha il sangue blu, appunto. In Cina questo certamente non succedeva, o non succedeva almeno sotto il profilo teorico. Ma certamente gli intellettuali cinesi sono stati premiati dal fatto di essere selezionati, dunque i migliori, dunque indispensabili. Indispensabili a che cosa? Almeno questa era la promessa di Deng Xiaoping. Indispensabili alla modernizzazione della Cina. Siate bravi, siate capaci di modernizzare il paese nell'ambito scientifico, nell'ambito delle tecnologie, nell'ambito del sapere. Questo privilegio accordato agli intellettuali è però un privilegio che viene scontato in un modo abbastanza semplice ma duro. Questi intellettuali devono comunque essere esclusi dal potere. C'è un'altra gerarchia, selezionata per altre vie, ed è quella politica, quella del partito. Naturalmente ci possono essere dei punti di contatto. Spesso il figlio del generale, il figlio del quadro, il figlio del dirigente politico ha, per tante ragioni, un più facile accesso all'istruzione. E comunque è una gerarchia che tendenzialmente deve essere distinta. Gli studenti sappiano che non potranno avere in sé potere. Se come studenti, come intellettuali, aderiranno alla carriera politica, questo è un altro discorso, naturalmente. Chi comanda nell'università sarà ancora il partito, non sarà il docente universitario. E un'altra condizione che è abbastanza interessante, soprattutto in un momento nel momento dell'avvio della riforma e di crescita anche economica della Cina, è quello semplice: gli intellettuali che hanno redditi fissi saranno impoveriti nel momento in cui alcuni ceti, non tutti, ma alcuni, tendono invece ad arricchirsi. Nel momento in cui anche l'inflazione compare in Cina, certamente gli studenti, gli intellettuali, vengono collocati al livello più basso, almeno della società urbana, in termini di reddito. Per cui paradossalmente ci troviamo di fronte ad un ceto sul quale pesa la responsabilità di modernizzare il paese, sul quale pesa la responsabilità dei compiti più elevati indicati dalla gerarchia politica, ma nel contempo espressamente emarginato dal potere e da quella forma di potere che è anche comunque, non dico la ricchezza, ma un reddito adeguato. Peraltro, la riforma opera una trasformazione nello stesso ceto politico, nello stesso ceto intellettuale, nel senso che questi intellettuali non sono più gli studenti degli anni 50, che al massimo potevano aspirare alla facoltà di ingegneria dell'Unione Sovietica, di Mosca o di qualche altro posto. Ormai questi intellettuali sono intellettuali che vedono il mondo, e il 70% degli studenti, più del 70% degli studenti cinesi che hanno ottenuto borse di studio per l'estero hanno indicato e sono andati negli Stati Uniti, non a caso. Si tratta comunque di intellettuali, e spesso sono proprio coloro che parlano le lingue, che parlano quel tanto di inglese per poter conoscere, frequentare, per avere accesso allo straniero che comincia ad entrare in Cina. Dal 1981 è possibile viaggiare da soli in Cina, il che vuol dire moltissimo. Vuol dire poter, da parte, poniamo anche del sinologo straniero, poter parlare con tutti in qualsiasi circostanza. E comunque questo significa che gli intellettuali che più velocemente si aprono alle esperienze, che più velocemente sono in grado, che hanno gli strumenti semplicemente per poter conoscere una parte del mondo, certamente questi intellettuali e questi studenti assorbono idee, comportamenti, valori che non sono quelli che sono stati dominanti in Cina per 30 anni. Questo movimento degli studenti si è, per la verità, già manifestato. Badate, recentemente, qualcuno ha indicato in una, come dire, nell'origine del movimento degli studenti il muro della democrazia del 1978-79, in cui invece non furono dominanti gli intellettuali. Il leader di quel movimento, che fu certamente un movimento di libertà, la libertà d'espressione, era un elettricista. Dunque c'era una componente diversa e soprattutto elitaria. Gli studenti diventano invece un movimento nell'inverno dell'86-87, e il fatto di non aver represso questo movimento adeguatamente costerà a Hu Yaobang la carica di segretario del Partito Comunista Cinese. Ed è ancora importante considerare che proprio ad aprile, in concomitanza con i funerali dello stesso Hu Yaobang, risorge il movimento intellettuale, il movimento degli studenti. Ma questa volta, evidentemente, ha qualche cosa in più. Non è un movimento particolarmente organizzato, ma ha soprattutto una testa, un cervello. È un movimento che pensa, è un movimento che pensa e che agisce politicamente. Il funerale di Hu Yaobang, la venuta di Gorbaciov, con quello che hanno, questi avvenimenti con quello che hanno anche di simbolico, sono stati effettivamente il propellente di questo movimento. Come si può contraddistinguere, come si può riconoscere il tratto ideologico di questo movimento? Certamente per molti aspetti complesso, non dico magmatico, ma sicuramente complesso. Per cui il giudizio che do in questa occasione è un giudizio che può essere discusso e che personalmente non sottoscriverei al 100%. Ma per usare un'analogia, potrei dire che il movimento degli studenti assomiglia molto di più al 1848 europeo piuttosto che alla Comune di Parigi. Infatti, gli elementi che sono fondamentali, gli elementi ideologici che sembrano essere fondamentali, sono sostanzialmente di tipo, noi diremmo, liberal borghese. La democrazia, la libertà di parola, la libertà di esistere. Badate, non si parla però della libertà di costituire dei partiti, partiti antagonisti al Partito Comunista Cinese. C'è piuttosto una, come dire, il tentativo di sottolineare, di indicare l'esigenza del pluralismo, e in questo sta la grande intelligenza, anche se è stata spezzata, del movimento degli studenti cinesi, nel senso che si sono inseriti con coraggio, con giudizio politico negli equilibri interni al Partito Comunista Cinese. All'inizio, badate, subito all'inizio è evidente. Perché sostenere Hu Yaobang? Perché ricordare Hu Yaobang? Perché non parlare mai, mai intendo, mai male, di Zhao Ziyang, del segretario del Partito Comunista, che non a caso sarà eliminato politicamente nel corso dello scontro tra il regime e gli studenti. Invece gli obiettivi sono precisi. Gli obiettivi sono Deng Xiaoping e Li Peng, vale a dire i due esponenti che in qualche modo si potrebbero definire centristi nell'ambito del movimento di riforma, sempre, sia chiaro, ma certamente non gli esponenti di punta, gli esponenti di mediazione forse, di mediazione diciamo al tempo del tredicesimo congresso, nell'ottobre dell'87. Gli studenti giocano una partita. È importante considerare che a questa partita non hanno partecipato in pochi, non hanno trovato un sostegno tiepido, hanno trovato un sostegno caloroso da parte di molti che studenti non sono. Hanno trovato l'appoggio anche di una parte del partito. Oggi, naturalmente, i tempi sono cambiati velocemente, ma nelle manifestazioni di maggio, la scuola quadri del Partito Comunista Cinese, con studenti e professori, ha partecipato alla critica a Deng Xiaoping e al regime, i giornalisti del Quotidiano del Popolo, che vuol dire una quota, una parte importante della gerarchia politica. Evidentemente lo scontro è stato, e non è facile stabilire i tempi e i modi di questo scontro, forse per certi aspetti può darsi che questo scontro non sia del tutto chiuso ancora oggi, questo non è possibile stabilirlo precisamente, c'è una settimana di blackout e noi non sappiamo in quella settimana che cosa è accaduto. Certamente in quella settimana l'equilibrio è precipitato a vantaggio di Deng Xiaoping, a sfavore di Zhao Ziyang. Questo è l'esito. Noi sappiamo che cosa è successo alla fine, quali sono state le decisioni. Oggi la situazione politica sembra tornata a prima del tredicesimo congresso, che fu un congresso di mediazione. Sembra tornata alla primavera dell'87, quando lo scontro tra riformatori e, diciamo così, frenatori del processo di trasformazione avviato comunque da Deng Xiaoping era giunto ad un punto di crisi. Ho detto movimento degli studenti come movimento intelligente, ma come movimento, diremmo, io direi proprio così, liberale, estremizzando un pochino. Tutti i simboli vanno in questa direzione. Badate, ci sono simboli che si possono contrapporre, l'Internazionale con la Statua della Libertà, ma l'Internazionale è un simbolo funzionale agli equilibri, come dire, politici all'interno del partito. La Statua della Libertà non è funzionale a questi equilibri. La Statua della Libertà è la componente ideologica degli studenti che sanno cantare l'Internazionale per poter agire all'interno del Partito Comunista Cinese, per poter in qualche modo. E un altro simbolo importantissimo è la stessa presenza di Gorbaciov. Perché quando, proprio il giorno in cui Gorbaciov arriva, più massiccia è la partecipazione popolare, perché è così importante politicamente quell'occasione? Perché effettivamente Gorbaciov, che forse ritarda nella via della perestroica, è sicuramente molto più avanti nella via della glasnost, cioè della trasformazione politica, ed è probabile che in quella circostanza gli studenti abbiano cercato di fare del loro movimento l'equivalente di Solidarność in Polonia, abbiano cercato, in altre parole, di condizionare il dibattito istituzionale, il dibattito all'interno del partito, essere riconosciuti, e per questo hanno fatto lo sciopero della fame, non è semplicemente protagonismo, è protagonismo per aprire un processo politico, forse quella che è o l'equivalente della tavola rotonda inaugurata appunto a Varsavia. Detto questo, delle caratteristiche politiche e anche ideologiche del movimento degli studenti, non rimane che da domandarsi un'altra cosa. Perché nel 1986-87 questo movimento degli studenti non è riuscito ad avere un sostegno di massa e a giungere ad una, beh, quello che poi si è risolta effettivamente in una crisi sanguinosa? Perché adesso? Perché adesso effettivamente sono giunti al pettine i nodi della riforma economica. I nodi della riforma economica che in qualche modo sono già stati enucleati nell'intervento che mi ha preceduto, almeno nella sostanza. È vero che la riforma di Deng Xiaoping ha permesso lo scatenarsi di tensioni sociali, certo. È vero che la riforma economica di Deng Xiaoping ha permesso un rimescolamento dei poteri, dei ruoli, delle classi sociali in Cina. Questo è vero. Dire che oggi la Cina sia un paese impoverito rispetto alla Cina di Mao è però falso, totalmente. Su questo non c'è da discutere, o non c'è da discutere molto. È un paese lacerato, non impoverito. Ma d'altra parte le rivoluzioni spesso capitano in questi paesi. La Francia della Rivoluzione Francese era il paese più ricco d'Europa, ma era anche il paese più lacerato socialmente. In questo caso sarebbe opportuno vedere i termini e gli elementi dello scontro economico. Io non voglio fare un'analisi dettagliata di questo, però vorrei solo tracciare dare alcuni elementi poi per il dibattito. Intanto, che cosa significa la riforma di Deng Xiaoping? Sostanzialmente la riforma di Deng Xiaoping ha tre ambiti di azione. Intanto le campagne. Quello che accade nelle campagne non è una riforma. Le riforme nell'ambito dei paesi a economia pianificata nascono alla metà degli anni 60, negli anni 60 in Europa orientale. E il principio delle riforme, naturalmente, è quello di cambiare qualcosa per non cambiare nulla. Quello che è accaduto nelle campagne cinesi è invece una rivoluzione, nel senso che cambia completamente il modello economico. Le campagne di Mao, le campagne delle comuni, vengono, nel giro di qualche mese, spazzate via e vengono sostituite da altre campagne. Se questo processo fosse un processo che penalizza i contadini, le rivolte ci sarebbero state, ma all'inizio degli anni Ottanta. I contadini vedono invece tra il 79, tra meglio ancora l'80, quando poi la riforma si applica effettivamente, e l'84, 84-85, vedono aumentare il loro reddito complessivo di alcune volte. Non è facile stabilire quanto effettivamente. Non è però un aumento percentuale, è un aumento di, appunto, alcune volte. Tre volte? Questa è la cifra che trova più o meno concordi gli esperti. Il problema è che questo aumento di reddito è un aumento di reddito che non si può ripartire in modo uguale per tutti, e soprattutto non si può ripartire egualmente in tutte le regioni della Cina. Per molti aspetti questo processo di riforma è un processo che ha ancora tratti egualitari, non è la privatizzazione delle campagne, anche se c'è una parte del settore agricolo che viene privatizzato, esisteva già prima. L'appezzamento individuale privato semplicemente si amplia e giunge ad essere circa il 15% della superficie, dell'unità produttiva, che è molto nei paesi a economia pianificata, ma non è questo il dato più rilevante. Il dato rilevante è invece quello che è il sistema della responsabilità. Ma il sistema della responsabilità non è terra ai contadini, non è privatizzazione della terra, non è affatto vero. È un sistema di contratto e badate, è sempre, anche se cambierà gradualmente dal 1979 all'84-85, cambierà gradualmente, ma certamente è un processo ancora centralizzato, nel senso che è lo Stato che stipula un contratto con i contadini. Questo è un processo abbastanza importante perché permetterà alla Cina, ma permetterà alla Cina della metà degli anni Ottanta, di far crescere in modo significativo e reale la produzione agricola, la produzione dei cereali in particolare. Il più grande raccolto che la Cina abbia mai avuto di cereali è nel 1984. La produzione raddoppia in un periodo di circa 6 anni. Questo non è impoverimento. Qualcuno si sarà impoverito rispetto a qualcuno che si è arricchito molto di più, ma non è impoverimento. Tuttavia i contadini non sono affatto contenti. Questo è interessante considerare, ma non perché ci sia una carenza di cibo. Il fatto è che la Cina maoista, era sostanzialmente una Cina legata ad un'agricoltura di autosussistenza. Si produceva quel tanto per non morire di fame. L'eccedenza era marginale. Rossana Rossanda, in un articolo comparso ieri sul Manifesto, che probabilmente molti hanno letto, alimenta un equivoco, che i 10 grandi rapporti, lei cita questo materiale di Mao, questi 10 grandi rapporti siano, come dire, uno scritto progettuale. In realtà i 10 grandi rapporti sono piuttosto la fotografia di quella che è l'economia cinese e l'originalità del modello cinese rispetto a quello sovietico. L'economia della Cina sostanzialmente ha una città, un'industria di tipo sovietico, al tempo di Mao naturalmente, e una campagna del tutto originale, del tutto particolare. Non poteva essere introdotto in Cina il modello sovietico nelle campagne. Questo è il dato reale. Le campagne sono le campagne in cui l'egualitarismo è un dato in qualche modo oggettivo. È la divisione della povertà. Ed è un egualitarismo sul quale si potrebbe anche discutere, non era proprio un egualitarismo come intendiamo magari noi. Comunque, certamente questo era un elemento importante. Nelle campagne di Deng Xiaoping, naturalmente non abbiamo più questo egualitarismo, ma abbiamo la creazione di una eccedenza agricola. Una eccedenza che può diventare anche base, certo, per l'accumulazione e per lo sviluppo industriale. Ma d'altra parte, non è questo l'obiettivo che si sono proposti tutti i paesi che hanno fatto una rivoluzione anche di tipo socialista e non soltanto una rivoluzione, diciamo, democratico-borghese. Certo, perché le rivoluzioni socialiste si sono realizzate sostanzialmente proprio in paesi economicamente arretrati e questo è in qualche modo parte della storia dei modelli di economia, dei modelli di economia pianificata. Comunque, il risultato è sempre questo, lo squilibrio che viene avviato dalle riforme economiche di Deng Xiaoping è uno squilibrio che parla, è uno squilibrio che non è impoverimento, ma è nuova stratificazione sociale, questo sì, è uno squilibrio che in qualche modo è un fatto politico, è uno squilibrio che condiziona la discussione politica, la discussione ai vertici del partito, che condiziona il vivere poi dei contadini. Ci sono 180 milioni, 200 milioni di contadini espulsi dalle campagne in questo modello? È un calcolo economico, non è un dato statistico, perché nessun ufficio statistico cinese può raccogliere un dato di questo genere. Nel senso che si parte da questa ipotesi, la produttività è cresciuta nell'agricoltura. Se cresce la produttività, vuol dire che in meno fanno il lavoro, producono quello che veniva prodotto all'epoca di Mao da molti più contadini. È un bene o è un male? Questo può essere un tema di discussione. Ma certamente non si tratta di una espulsione dei contadini. I contadini sono diventati invece operai dell'industria rurale. Sono diventati anche operai delle costruzioni, come sempre accade. Nel senso che sono i primi ad andare in un settore in espansione come quello delle costruzioni, che è il primo settore che si mette in moto quando si tende a sviluppare maggiormente l'economia. Naturalmente, questo autunno è successo c'è stata una svolta in qualche modo di ordine politico-economico, e cioè la recessione, quella che noi chiameremo recessione, la stretta, il controllo centrale degli investimenti, per cui è successo proprio questo. Gli operai dell'edilizia a milioni si sono trovati disoccupati. Disoccupati è un modo un po' brutale, ed è probabilmente così. In realtà hanno ancora la terra che hanno generalmente, diciamo così, subaffittato ad altri. Hanno ancora un qualche reddito, non sono degli emarginati. Il fatto è che il contadino che diventa operaio non vuole più tornare a fare il contadino. Questo è il dato vero. Tende piuttosto a trasferirsi nelle città. Quello che è successo in Cina dunque non è semplicemente un processo di impoverimento, è invece l'apertura, la scoperchiatura di una pentola in ebollizione. Oggi la Cina è un paese lacerato dalle contraddizioni e da contraddizioni che non esistevano prima. Però sottolineo questo, non è semplicemente il frutto della miseria, non è questo. Chi si protesta, chi si agita, chi è in movimento perché si è rimescolata la società, non perché semplicemente sia diventato più povero. Non è questo. Le tensioni sociali aspre degli anni 30 negli Stati Uniti non erano un fenomeno di povertà. Il disoccupato della Grande Depressione andava a cercare lavoro in automobile, che è un modo particolare per l'intellettuale italiano che leggeva i romanzi di Steinbeck, era esterrefatto per questo, perché non poteva avere l'automobile. La società europea degli anni 30 era una società più povera di quella americana, ma quella americana produrrà il New Deal, quella europea produrrà il fascismo. Come vedete, questo è un dato che occorre considerare quando si parla delle trasformazioni sociali. Un altro tema del quale si discute in questi giorni è sempre il giudizio della riforma. Se la Cina è una Cina che è in questa crisi perché ha aperto la sua economia a elementi di mercato, perché ha aperto soprattutto la sua economia al mercato internazionale, questa Cina sbaglia? Deve chiudere? E quella è la tesi di Samir Amin, ad esempio, della déconnexion. Separarsi, naturalmente, Samir Amin consiglia fare proprio l'opposto di quello che ha fatto Deng Xiaoping. In qualche modo ritornare proprio a Mao. Ci sono altri paesi che hanno fatto questa, che hanno adottato questa déconnexion, questa separazione dal mercato internazionale. Non necessariamente sono paesi socialisti, la Birmania. E non a caso la Birmania è stata teatro di rivolte, ancora una volta, studentesche, assai significative, e con l'obiettivo che era un obiettivo del tutto paragonabile a quello degli studenti, degli intellettuali e degli intellettuali cinesi. Per cui se c'è una parentela, in questo caso la vedrei piuttosto tra gli studenti birmani dell'anno scorso, precocemente dimenticati, e anche quelli morti, e appunto gli studenti di Tiananmen. Ma su questo appunto discuteremo. Certo, dal punto di vista politico, dove vada la Cina non è facile dire. È sicuro un dato: l'equilibrio politico si è consolidato probabilmente intorno ai riformatori, diciamo moderati, quelli che frenano. Gli uomini che sono apparsi di nuovo in Cina, che sono apparsi in televisione, sono gli uomini, spesso quelli esclusi dall'ufficio politico al 13° congresso. E dunque abbiamo ancora, al posto di Zhao Ziyang, abbiamo Chen Yun. Lui sì, veramente, la materia grigia dei frenatori. Abbiamo Li Shenyan, abbiamo quegli esponenti che sono stati in qualche modo messi da parte quando si voleva avanzare con la riforma. Ora ci sono tutti. Qual è l'idea della riforma di un personaggio come Chen Yun? L'idea della riforma, che è comunque, come Deng Xiaoping, come Li Shenyan, un grande capo militare, prima di tutto, un grande capo guerrigliero. Questo non, la storia non bisogna, come dire, cancellarla sempre. E la sua visione è una visione molto, molto bella, in fin dei conti, ed è questa: non bisogna allargare le gabbie dell'uccellino in gabbia, allargare le sbarre della gabbia dell'uccellino in gabbia. Bisogna semplicemente allargare la gabbia. In altre parole, la scommessa di Chen Yun è stata, poiché ha appoggiato all'inizio la riforma, è stata questa: cercare di far attivare forze interne di mercato per farle lavorare per il re di Prussia, o meglio, proprio per l'imperatore della Cina. Questo è l'uomo che oggi influenza con le sue idee la svolta a Pechino. Sono idee brillanti? Sono idee che potranno gestire davvero la svolta? Su questo, francamente, io ho qualche dubbio. Nel senso che uccidere gli studenti vuol dire dover fare a meno di un sostegno. Uccidere gli studenti nell'ambito di una sommossa popolare vuol dire dover fare a meno di un appoggio che invece è necessario per qualsiasi processo riformatore. Però badate, in questo uso della violenza c'è anche, non dico intelligenza, c'è calcolo. Gli studenti stavano per abbandonare la Tiananmen, perché appunto sono non violenti, sono pacifisti, in qualche modo lo hanno detto. Eppure la repressione è scattata comunque. L'informazione triviale dice che non avevano nei magazzini bombe lacrimogene a sufficienza per cominciare. In realtà è stata cercata la prova di forza, perché chi comanda un paese come la Cina non può permettersi di perdere la faccia. È un'espressione proprio tipicamente, direi, cinese. Non ci si può permettere la sconfitta morale. Se uno insulta il potere, se uno si propone come potere diverso, deve essere represso. Per cui a freddo sono stati uccisi gli studenti, per cui a freddo si uccideranno gli studenti arrestati in questi giorni. Probabilmente facendo una scelta, coloro che si pentono forse avranno soltanto l'ergastolo, coloro che invece non si pentono saranno uccisi, coloro che sono etichettabili come proletari, come sbandati, saranno comunque uccisi, non giustiziati, è meglio usare le parole le parole vicine alla realtà. Coloro che invece appartengono a un ceto sociale elevato, cioè lo studente figlio del quadro, probabilmente saranno puniti ma non uccisi. Ed è per questo che comunque sarà veramente importante da parte di tutti stabilire quali iniziative, stabilire cosa fare, ma comunque fare per portare sostegno agli studenti cinesi. Il modello che sta alla base di questo ragionamento è un modello però curioso. Reprimere, ma non ritornare indietro con la modernizzazione. La Cina continuerà in questa via. Reprimerà le tensioni sociali e politiche in primo luogo, ma proseguirà in questa direzione. E qui è vero. Certamente il modello è un modello che non si trova sui manuali di marxismo-leninismo. È un modello che è dettato comunque dai dati della storia e soprattutto dai processi economici, sociali e politici che si sono avviati in Asia orientale. Un giornalista, un po' meno informato della media, è stato intervistato al TG1 ed era presentato dunque quasi come un esperto, dicendo che gli studenti cinesi si ribellano perché è il modello di libertà che viene dal Giappone. Questo modello di libertà forse viene giustamente dagli Stati Uniti, di libertà nel senso proprio, come dire, proprio la statua della libertà, ma è sicuro che dal Giappone non è venuto nessun modello di libertà. Il modello a cui guarda Deng Xiaoping è quello di cui si è discusso proprio quest'inverno. A novembre un ricercatore di Shanghai ha scritto un saggio che è uno di quei segni di dove stava andando la Cina. La crisi annunciata, un saggio in cui si discuteva di un argomento molto semplice. La Cina ha bisogno di un despota illuminato, cioè di un dittatore che faccia le riforme economiche. In altre parole, quello che è successo in Giappone alla fine dell'Ottocento e fino ad oggi, sostanzialmente, quello che è successo in Corea del Sud, quello che è successo a Taiwan. Questo è il modello verso cui la Cina probabilmente si sta muovendo. Io francamente non so dire se è un modello che ha a che fare con il comunismo, anche se questo regime continuerà a chiamarsi comunista. Non voglio però farne una questione, come dire, di termini, di nomi. Su questo a ciascuno il suo. Avevo alcune perplessità rispetto alla relazione. Anzitutto, proprio questa figura di Chen Yuen, no? Mi è capitato di leggere sui giornali che nel gennaio di quest'anno sono uscite in contemporanea due cose singolari. Da una parte, impensabili dopo 13 anni della rivoluzione culturale, una circolare del Partito Comunista Cinese che proibiva ogni pubblicazione non autorizzata attorno alla rivoluzione culturale. Accanto a questo un articolo proprio di Chen Yuen dove veniva paventato il pericolo che ritornasse un'opposizione di sinistra e una rivalutazione dell'economia centralizzata. Questo mi sembra proprio a gennaio di quest'anno. Questo come preludio a una serie di fenomeni che se sono partiti da una contestazione studentesca, pure non hanno avuto, secondo me, tratti solamente studenteschi. Cioè, per esempio, questo fatto che non saranno probabilmente 200 milioni completamente tutti questi masse proletarie, contadini urbanizzate, completamente pauperizzate. Non saranno proprio 200 milioni, però senz'altro ci sono milioni e milioni di persone, milioni e milioni di contadini soprattutto, che si sono riversati nelle campagne, nelle città, dalle campagne nelle città, che nelle città non trovano un lavoro, non trovano una casa, che vivono sotto i ponti, che vivono nelle stazioni ferroviarie. E mi è venuto di pensare che, soprattutto nell'ultima fase della lotta dell'occupazione di piazza Tiananmen, dalle stazioni, dai ponti, si fossero spostati sulla piazza. Probabilmente. C'è questo dato di questo comitato operaio indipendente che si è costituito, che ha proclamato uno sciopero generale in contemporanea alle agitazioni studentesche, mi sembra, se non sbaglio, in contemporanea alle agitazioni studentesche contro la legge marziale, sono fenomeni e che aveva installato in mezzo a piazza Tiananmen un tendone, degli altoparlanti, svolgeva un'attività quindi di propaganda, di organizzazione costante. A quanto mi è capitato di recepire da alcune testimonianze che ho sentito per radio, per televisione, proprio questi operai in piazza Tiananmen sono stati quelli che avevano preparato delle Molotov, che hanno organizzato un primo tentativo di resistenza al massacro dei militari. È significativo anche, secondo me, che proprio il 22 aprile, in contemporanea alle manifestazioni di Pechino, la contromanifestazione per i funerali a Yaobang, a Xi'an vi siano state, accanto alla manifestazione studentesca, delle rivolte popolari, cioè dei saccheggi, la distruzione di negozi privati, fatta principalmente da settori che non erano studenteschi. Hanno detto tutti che gli studenti si erano ritirati immediatamente come sono cominciati gli scontri. Chi faceva gli scontri erano verosimilmente proletari, in particolare operai, perché sono stati arrestati 43 operai ed è stato già fatto all'inizio di maggio, mi sembra, il 7 maggio, il processo a questi, e il 7 maggio era già stata commutata una pena di morte ad un ferroviere che aveva partecipato a questi disordini a Xi'an. È significativo che oggi sui giornali siano proprio tre operai i primi ad essere condannati a morte per i disordini di Shanghai, per l'episodio del treno che, dopo aver investito un sit-in e ucciso sei manifestanti, è stato dato alle fiamme dai manifestanti stessi. Quindi per questo episodio proprio ieri sono stati condannati a morte tre operai. Ieri l'altro nei comunicati del governo, oltre le cose infami, ridicole, la dichiarazione che c'erano stati 200 morti e 1000 feriti a metà fra esercito e manifestanti, gli attacchi erano tutti concentrati contro questo comitato operaio indipendente, contro gli operai. A me viene da pensare che senz'altro ci sono dei motivi di insoddisfazione di questi strati intellettuali, diciamo così, piccolo borghesi, che si vedono frustrati rispetto a una nuova borghesia che è rampante, è in fase di ascesa. La piccola borghesia trafficona dei centri urbani, sono i pochi relativamente arricchiti delle campagne che riescono senz'altro ad avere gratificazioni sociali, livelli di reddito maggiori rispetto ai settori di piccola borghesia intellettuale, che appunto questi ultimi senz'altro hanno motivi di scontento, senz'altro sono stati il fattore scatenante. Ma dietro tutto questo mi sembra che ci sia un movimento proletario ben più vasto e che sta già sedimentando degli elementi di organizzazione. Questo probabilmente confonde la speranza con quei pochi dati che ho da un giudizio troppo affrettato, però ecco, mi sono trovato un articolo di Jean Chesneau che è apparso sul Manifesto del 7 maggio che mi ha colpito soprattutto una frase: la Cina di Deng aveva abdicato al terzo mondismo militante degli anni 60, ma stava sprofondando in tutti i fenomeni del terzo mondismo, dalla congestione demenziale delle megalopoli all'emarginazione massiccia dei contadini, di cui solo una minuscola parte profitta della rivoluzione verde, dal deficit alimentare alle frustrazioni del consumismo, gli eccessi di collera di coloro che restano in margine della modernizzazione, le grida di speranza verso una democrazia anche lontana e idealizzata che si sono sentite in Tiananmen sono infine tanto diversi dagli eccessi di collera e dalle grida di speranza che si sentono a Caracas e Amman, Mexico City e Manila, Karachi ed Algeri. Ecco, a me da un discorso di questo tipo mi viene subito da pensare a quella che Marx chiamava la legge generale assoluta dello sviluppo capitalistico, cioè un'accumulazione di miseria direttamente proporzionale all'accumulazione di capitale. Probabilmente è questo che sta avvenendo, ma se questo sta avvenendo, se già ci sono fermenti così grandi, e prima il paragone con il Giappone che faceva, faceva venire in mente che qualche cosa si sia mosso anche in occasione del 40° anniversario della vittoria della guerra di liberazione contro il Giappone nell'85, che ci siano stati anche lì notevoli movimenti di carattere anti-giapponese, quindi immediatamente, vista l'invasione giapponese del mercato cinese, le imposizioni che il Giappone riesce di fatto in maniera direttamente imperialista a imporre al proletariato cinese, avevano carattere anti-imperialista, anche se non so, su questo non sono quali elementi di coscienza. Nazionalista. Comunque, di fatto, diciamo, di carattere anti-imperialista, si contrapponevano immediatamente a questi interessi. Allora, mi sembra che se da una parte, appunto, ci sono questi settori intellettuali, ci sono anche questi grossi movimenti di masse proletarizzate, di masse pauperizzate, e penso che in questo quadro di ristrutturazione economica, che appunto Cesnone, nell'articolo che citavo prima, chiama modello staliniano-thatcheriano, appunto una forma di dittatura, di autoritarismo centralizzato di tipo staliniano collegato a un'economia di tipo thatcheriano, quello che assolutamente questo tipo di regime non si può permettere, forse non sono tanto delle agitazioni studentesche, forse non è tanto il perdere la faccia di fronte alla storia, di fronte all'opinione pubblica, ma è soprattutto forme di resistenza operaia, se pensiamo che per esempio in una fabbrica cinese si accede per concorsi severissimi, e si accede solo attraverso dei contratti a termine. Quindi in una situazione del genere, di ristrutturazione selvaggia di questo tipo, con un accesso imperialistico di questo tipo, l'industria solo privata, non sapevo di... No, questo vale solo per dove c'è contratto, vale a dire nelle industrie cooperative, nell'industria legata ad esempio alle brigate di produzione, quella che è industria diciamo, autonoma delle province, proprio del Xi'an, delle unità marginali, non di quelle statali, nel senso che in quelle statali l'accesso non è facile comunque, nel senso che il problema del contratto a termine mi riferivo, invece il problema dell'accesso nell'industria statale è invece un problema reale, perché gli operai dell'industria hanno stipendi che sono normalmente superiori a quelli hanno un reddito comunque superiore rispetto a quello di molte altre categorie, e da questo punto di vista una delle tesi che tende a rendere meno enfatico, non che non sia presente questo dato, ma meno enfatico questo dato, è il fatto che gli operai hanno comunque maggiori strumenti di difesa di altri ceti urbani, ecco. Altri ceti, perché gli operai hanno con la riforma un sistema di incentivi, non sono licenziabili. Non è vero che gli operai siano licenziabili. Coloro che sono licenziabili sono quelli a contratto, cioè di settori controllati da unità di lavoro, come dire, indipendenti, cooperative o provinciali, non da quelli, non nella grande acciaieria. Chi è nella grande acciaieria non viene licenziato. C'è il progetto di legge per proprio il fallimento, che non è mai passato, perché avrebbe precisamente messo in discussione la stabilità di una quota consistente della classe operaia cinese, per cui per opportunità politica è sempre stato bocciato questo progetto. Per cui il discorso sulla classe operaia in sé, cioè è verissimo, ci sono questi fenomeni, però sono fenomeni che complessivamente tendono a essere, cioè è difficile enfatizzarli, almeno allo stato attuale, nel senso che coloro che si agitano sono operai che hanno perso il posto, cioè ex contadini, questo sì. Si sono però agitati anche operai inquadrati, cioè quando ho detto che la classe operaia ha avuto un peso poco significativo, naturalmente a Pechino sono scesi tutti gli operai delle grandi industrie, ma non c'è stato uno sciopero generale, o meglio, hanno fatto manifestazioni di sostegno con i capo reparti, con il capo reparto insieme, cioè tutti, però non c'è stato uno sciopero generale a sostegno. Questo avrebbe avuto un significato politico importante. Ora, naturalmente, in un paese come la Cina è sufficiente che ci sia una quota anche irrilevante di operai che protestano con consapevolezza di progetto politico, che ovviamente sono un numero considerevole. Che questa sia una tendenza, appunto, cioè, è un po' da discutere. Ecco, naturalmente, quello che tende a rendere, io ho sottolineato questo aspetto, quello che tende a rendere importante il ruolo degli intellettuali o degli studenti è semplicemente il fatto che gli intellettuali e gli studenti tendono ad essere quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre, come dire, un po' avanti. Perché? Perché hanno strumenti di analisi politica, sono di professione fanno questo. Se sono inseriti in un, come dire, nelle contraddizioni della società, ovviamente sono i primi a mettersi avanti. Questo naturalmente, se c'è stata una manifestazione con 1 milione di persone a Pechino, vuol dire che non sono gli studenti e quelli che sono accampati intorno alla stazione centrale. Non è possibile. Deve esserci una mobilitazione estremamente più significativa, che ha coinvolto tutta la popolazione, anche i contadini dei villaggi vicino a Pechino che hanno costruito le barricate contro i soldati. Probabilmente c'è stata una notizia di cronaca, ecco, poi è difficile stabilire la veridicità di queste informazioni, per la verità, ma comunque è possibile che ci siano state cose di questo genere, cioè un movimento sicuramente, diciamo, interclassista di massa, che ha coinvolto tutti, anche gli operai evidentemente, ma certamente un movimento, come dire, dal punto di vista organizzativo non egemone, o non ancora. Magari è possibile che nei prossimi 10 anni non saranno gli studenti, ma saranno invece altre forme. Questo io però cercavo di spiegare perché gli studenti, perché comunque gli studenti hanno avuto un ruolo politico che non ha avuto quel comitato, che è un comitato, come dire, che rappresentava chi? Era certamente un comitato, almeno da quello che relativamente poco significativo. Questo sì. Ecco, quello che non mi spiego è perché tanta enfasi poi allora nel reprimere e nell'accanirsi contro questi da parte del regime. Una spiegazione che provava ad abbozzare era questa, appunto: di fronte alla necessità di forte mobilità, di forte flessibilità della forza lavoro, di fronte a questi processi di pauperizzazione, di proletarizzazione, forme anche minime, anche minoritarie, però in ogni caso significative, che avessero già una struttura organizzativa propria, ecco, andavano a intralciare in maniera compromettente. Questa era l'ipotesi che tentavo di fare. Il fatto che sia il perché della repressione, soprattutto in questo, il perché si fosse scatenata in un momento in cui gli studenti erano già fiacchi, cioè tra l'altro c'era stata una tempesta sulla Tiananmen 2 giorni prima, per cui proprio erano alla frutta, anche come resistenza fisica gli studenti stessi. Però c'è comunque questo accanimento che è squisitamente antioperaio, perché anche i disordini di Xi'an, quando ancora il governo aveva una posizione di dialogo, quando ancora Zhao non era stato destituito, c'era già stata una condanna a morte antioperaia, c'erano già 43 operai imputati di disordini. Ecco, questo era solo l'elemento che volevo portare. Subito, oppure forse è meglio magari qualche altra domanda, sì, o qualche altra domanda, poi almeno più argomenti per discutere, contattare dialoghi. Allora posso subito dare... Sì, è meglio, no, è meglio che non si sente niente. E io voglio subito premettere che della Cina conosco poco, quindi capisco di fare un intervento non conoscendo seriamente i problemi della Cina. Ed è un intervento che è motivato in parte da quello che ho sentito questa sera, in parte però da un significato complessivo che l'esperienza cinese ha avuto e secondo me ha tuttora nella storia del movimento operaio. Allora comincio con una battuta che non vuole essere polemica, ma comunque io capisco, è anche un po' espressione di un certo dissenso, io capisco che il cantare l'Internazionale avesse un significato funzionale per gli studenti, perché evidentemente l'Internazionale ha un valore di mito, di simbolo anche nel mondo cinese. Non capisco però perché il canto dell'Internazionale nella richiesta della espressione di libertà sia inferiore come simbolo alla statua della libertà americana, insomma, no? Credo che la ricerca di libertà sia una ricerca che può essere proclamata pienamente al canto dell'Internazionale, perché è nella prospettiva marxiana di una ricerca e una richiesta ulteriore di libertà rispetto alle libertà formali borghesi, ma non mai una negazione delle libertà borghesi. Allora si può cantare all'Internazionale chiedendo più libertà senza bisogno di riconoscere solo un significato funzionale al canto dell'Internazionale. La seconda osservazione, vorrei entrare più in argomento, è questa. Io ho avuto l'impressione che l'analisi che è stata fatta questa sera sia un'analisi che è partita dalla constatazione che la Cina è lontana, ma poi di fatto ha parlato di una Cina molto vicina, perché mi è sembrato che tutti i parametri di giudizio utilizzati per interpretare e valutare la Cina siano parametri di stampo borghese capitalistico. Ed è quindi in questo senso è una Cina molto vicina, perché è una Cina giudicata in una maniera molto eurocentrica, mi sembra, no? Mentre forse lo sforzo più importante credo sia quello di collocare la Cina nel suo contesto e di capire nel suo contesto storico e politico che cosa sta succedendo adesso in Cina. E non credo ci serva molto subito confrontare la Cina con i dati del capitalismo avanzato, ma piuttosto vedere un altro problema che io mi è sembrato di intravedere anche nella relazione, ma per me mi sembra più decisivo ancora, cioè il problema del confronto col periodo di Mao. Io credo che la questione storica di fondo sia decidere se la fase che è iniziata con la condanna della Banda dei Quattro e con l'insediamento di Deng Xiaoping è in una posizione di continuità o di rottura rispetto all'esperienza di Mao. Nei processi storici è sempre decisivo, mi sembra, individuare il dato caratterizzante o come dato di continuità o come dato di rottura. Allora la prima domanda da porsi credo sia questa per una valutazione di quello che sta succedendo in Cina. E quindi anche poi successivamente nella valutazione di che cosa hanno fatto gli studenti. L'esperienza organizzata e prospettata da Deng Xiaoping è nella continuità o nella rottura rispetto a quella di Mao? Io non so, non me ne intendo che io avrei bisogno di conoscenze dirette, però ho l'impressione che sia nella linea della rottura. E anche quello che è stato detto questa sera me lo conferma. Mi sembra che dire che, per esempio, che l'economia agricola cinese del periodo di Mao è un'economia di autosufficienza, è vero. Però è un'economia che si sviluppa in un paese che ha davanti una esperienza del processo di industrializzazione che è avvenuto in Russia. E Mao si confronta con quel dato. Questo sì che lo fa perché di tutto perché molti elementi delle due nazioni al punto di partenza dopo la rivoluzione sono abbastanza omogenei, ma poi anche perché l'impianto ideologico è lo stesso. Allora, è un problema di sussistenza, ma è anche un problema polemico rispetto a un processo di industrializzazione forzata a scapito continuo di ciò che era invece lo sviluppo produttivo nelle campagne. Questa è la scelta che Mao compie all'inizio, no? Questo volere sì, certamente avviare la modernizzazione, o perlomeno così, lo sviluppo del modo di produzione socialista, mi piace più dirlo in questi termini più marxisti, e quindi affrontare il rapporto fra il settore industriale e il settore agricolo, avendo davanti l'esperienza russa in cui certamente l'accelerazione dell'accumulazione industriale è andata tutto a scapito delle campagne. E questo Mao non lo vuol fare e non lo fa. Allora non è solo un problema di sussistenza, è un problema di un progetto politico, che c'è chiaro in Mao, mi sembra. Ecco, allora rispetto a questo progetto politico, il progetto di Deng Xiaoping è un progetto di rottura o di continuità? Come anche le accelerazioni che sono state messe in luce. Certo, sono accelerazioni che non derivano solo da una spontanea... Se sono delle accelerazioni sociali, non è solo una spontanea uscita di forza lavoro dalla campagna che si passa al settore della costruzione abitativa o della città. La accelerazione implica scontro, non passaggio così morbido, non un passaggio naturale per una crescita. Allora, di nuovo, l'insorgere di queste accelerazioni, il fatto che tutto questo avvenga con la creazione, con l'emergere di fenomeni nuovi, che sono la depauperizzazione, l'emarginazione sociale, questi sono fenomeni che non erano nel modello maoista. Il modello maoista li voleva certamente evitare, no? Anche questo che significato ha nel confronto dei due modelli? L'ultima osservazione che volevo fare. Nel modello maoista, gli è stato rimproverato parecchio, c'era un senso di autosufficienza della Cina, ma anche di guardinga diffidenza a non farsi coinvolgere troppo dai processi internazionali. Questa scelta avrà, appunto, ecco, ancora di nuovo le mie insufficienze di conoscenza, avrà bisogno di essere analizzata e interpretata, però a mio avviso nel modello maoista assolveva due funzioni che storicamente sono emerse poi successivamente, chiare. Da una parte, da non essere travolto da inevitabili processi di internazionalizzazione che provocavano una spinta del capitale sul modello di sviluppo maoista. E quindi il bisogno di difendersi dall'aggressività che il capitalismo esercita rispetto a un modo di produzione che si configura o comincia a configurarsi diverso dal suo. E dall'altro, forse perché no, un'intuizione politica ci potrebbe essere, Mao avvertiva forse che bisognava essere cauti anche rispetto ai processi di terziarizzazione del mondo che venivano nelle zone del terzo mondo, appunto, dell'Asia e dell'Africa, e quindi anche un problema non di prendere le distanze rispetto al terzo mondo, ma di evitare che la Cina subisse quei processi di pauperizzazione progressiva che poi sono emersi dopo chiaramente in tutti i fenomeni del terzo mondo. Ecco, allora, invece adesso questi processi sono stati abbandonati, la Cina si è coinvolta completamente nel processo internazionale, per cui subisce dei grossi influssi, mi sembra, da parte del capitalismo, ma dall'altra parte mi sembra che la Cina cominci a presentare dei fenomeni che sono fenomeni di terzo mondo. Allora, anche qui, il modello progettato da Deng Xiaoping è un modello in antitesi, in rottura rispetto al modello di Mao, no? Io ho l'impressione che, allora, ci posso fare una lettura, però... lo dico così come suggestione, di ciò che è successo in questi mesi in Cina, da parte degli studenti, come non solo certamente la richiesta di pluralismo, la richiesta di libertà di parola, di organizzazione. Queste sono cose che mi sembra che siano richieste in un paese che sta sperimentando un modo di produzione socialista, dice evidentemente i ritardi che questo paese ha, ma si inseriscono. Io credo però che non bisogna esaurire il problema degli studenti a questo. Credo che negli studenti, mi chiedo almeno, o anche spero, perché altrimenti perderebbe molto di valore tutto ciò che è successo, penso che negli studenti ci fossero delle domande, dei problemi che vertevano su questi orientamenti di fondo dello sviluppo del proprio paese, perché delle fasi di rottura storica, come mi sembra ci siano queste, fra il modo impostato prima e quello successivo, sono fenomeni che incidono profondamente sullo sviluppo culturale e politico di un paese, e perciò è naturale che una classe intellettuale, che una classe politica più agguerrita avverta subito, o anche solo in una maniera più immediata, ma sia coinvolta da questi problemi, che sono problemi decisivi nel definire i processi storici di un paese. No, volevo dire così, anche perché io prima ho introdotto in maniera molto così neutrale, senza entrare nel merito della discussione, però a questo punto mi sento stimolato a entrare nel merito della discussione, perché su molte cose non sono d'accordo e ne penso delle altre, quindi credo che sia importante anche che quanti dicono le loro opinioni, e anche in maniera più marcata. Io vi ho partito questo dato. Ora, noi se abbiamo cercato di evitare nelle nostre discussioni di introdurre troppo elemento ideologico, dobbiamo stare attenti poi a non introdurre un elemento ideologico inteso nel senso marxiano di falsa coscienza. Allora, non c'è dubbio che sostenere che esiste un'economia, sostenere che esiste uno sviluppo economico è ideologia, nel senso peggiore del termine. Esiste uno sviluppo economico, esistono tanti sviluppi economici possibili rispetto alle finalità che una società si dà, sulla base dei rapporti di forza all'interno di questa società. Esistono tanti elementi di economia, tante valutazioni che si danno sull'economia a seconda appunto di quelle che sono le finalità che si vogliono conseguire. Allora, ad esempio, una serie di affermazioni, secondo me, andrebbero motivate, ma andrebbero motivate in questa chiave. Aumenta il reddito delle campagne di una o due volte. Aumenta per chi il reddito nelle campagne di una o due volte? Aumenta per un ceto di contadini di una o due volte, perché contemporaneamente si creano oltre 200